Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Se vado al locale, parlo di quello che conosco, quindi parlo di Roma. Beh, insomma, sulle primarie dei parlamentari si possono dire tante cose. Non era il miglior modo di selezionare la classe dirigente, ma certamente averle fatto mi ha fatto vedere delle cose. E io ho visto, Fabrizio, non ho paura a dirlo, delle vere e proprie piccole associazioni a delinquere sul territorio. Era il ministro Marianna Madia nella sezione Tevore Democratico del PD il 25 giugno del 2013. Parlava con Fabrizio Barca, che allora aveva il compito di fare un inventario dei mali del PD romano. Mali che con Mafia Capitale hanno portato al commissariamento del partito, come tutti sanno. Ecco, sempre in quel quadro, Alfio Marchini, che era il candidato indipendente la corsa per sostituire il sindaco Alemanno, nel faccia a faccia finale con gli altri candidati, faccia a faccia fatto a Sky, era andato molto oltre. Era in maggio del 2013, questo è il suo appello finale. Siamo l'unico movimento libero che non ha partiti né padroni. E da uomini liberi noi combattiamo contro il consociativismo tra destra e sinistra, che per anni, ancora fino a poco tempo fa, di giorno fanno finta di litigare e di notte si spartiscono tutto. Di notte si spartiscono tutto. Chiaro, preciso, senza incertezze. Sapeva tutto solo lui? Può darsi, però è strano. Si può essere estranei e governare senza sapere nulla? Può darsi. Certo, sono parole che fanno effetto. Domani Marchini sarà qui con noi a spiegarci il senso e le origini di queste parole e i suoi progetti per Roma. In queste condizioni si può restare in consiglio comunale o è necessario uscire? Domani di questo, come ho detto, e di altro, ovviamente, parleremo con Alfio Marchini. Però, Mario, sono interessanti queste parole, sì, di questi due esponenti politici. Sì, perché Roma ovviamente è caput mundi, quindi non è una città qualsiasi. La situazione romana si riverbera ovviamente su tutta la nazione, nel bene e nel male. E c'era un famoso titolo dell'Espresso, capitale, certo, corrotta, nazione, certo, infetta, no? E secondo me ci sono segnali inequivocabili che qualcosa bisognerà fare. Cioè, i risultati dei ballottaggi di oggi mi paiono abbastanza evidenti. Cioè, voglio dire, quando il PD dopo 22 anni perde Venezia, forse deve interrogarsi sulla strategia di corto respiro di queste ultime settimane. Ma quando perde Arezzo, città della Boschi, ora, certo, cito il PD perché è il partito che, certo, governa. Se ci fosse un altro partito, avrei citato un altro. Cioè, mi pare evidente che ci siano segni di scricchiolio della strategia complessiva sul piano del territorio e del vero ricambio della classe dirigente sul territorio. Naturalmente. È per questo che per esempio l'iniziativa di Marchini è comunque interessante, al di là dei suoi, dei suoi contenuti. Senti, Pietrangelo non è qui con noi, ma è collegato. Pietrangelo, hai sentito anche tu? Pietrangelo? Io ho sentito, buongiorno. Ciao. Mi sentite voi? Sì, sì, benissimo. E allora? Io vorrei aggiungere una cosa. C'è un'obiettiva responsabilità però di Matteo Renzi. Nella vicenda romana, ancorché emblematica, c'è comunque il mancato appuntamento con quella che era la ragione sociale della sua presenza nella scena politica, che era la rottamazione. Sì. Perché al di là delle singole responsabilità di due sindaci che si sono succeduti, quindi sto parlando di Alemanno, il cui peggiore danno è stato quello di aver fatto poi votare i romani Ignazio Marino e quindi completare il quadro del disastro, c'è un'obiettiva responsabilità da parte del governo, perché Matteo Renzi ha semplicemente evitato di farsi inquadrare nella fotografia dove c'è Ignazio Marino. Non ha affrontato il problema a Roma, sì. non l'ha affrontato, certo. Anzi ha evitato accuratamente che si accostasse la sua presenza a quella di questo disastro. Ma questo è impossibile. Di fatto la città di Roma ha una storia che cozza completamente con la sua narrazione, certo, ancora una volta è la realtà che prende il sopravvento, perché è inimmaginabile che la capitale d'Italia non sia minimamente a livello di qualunque altra capitale europea o dell'orizzonte occidentale, certo. Perché Roma, oltretutto in mafia capitale, vede il minore dei problemi, è soltanto la punta di un iceberg, perché è impraticabile, invivibile questa città a prescindere persino da mafia capitale. Certo. Bene, ci risentiamo dopo. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Non ve l'hanno detto, vero? La vostra azienda ha chiuso. Il mercato digitale europeo crea o distrugge posti di lavoro. Lo shopping online sta battendo i negozi tradizionali e persino i tassisti. Hai chiuso l'azienda? È tutto computerizzato adesso. La gente nutre profonda sfiducia verso le macchine. L'hai visto Terminator? Siete stati dei venditori incredibili, ma ammettetelo, siete dei dinosauri. Secondo le statistiche, i posti di lavoro digitali pagano in media meno di quelli da impiegato, che rimpiazzano. Un duro impatto sulla classe media. Nick, ci sono. Google. C'hai trovato un lavoro a Google? Conosco molta gente che è passata attraverso la perdita del posto di lavoro, posti che sono letteralmente scomparsi. Al tempo stesso, Google e altre compagnie di quel tipo vedono aumentare le loro opportunità. Sono di più i posti di lavoro che il digitale crea o quelli che invece fa perdere? O non c'è una crescita netta di lavoro in questa rivoluzione digitale? Siamo nella terza rivoluzione industriale. Le statistiche concordano sul fatto che l'epoca digitale sta comportando un drammatico crollo dell'occupazione. Quest'anno Apple, per esempio, potrebbe raggiungere 88 miliardi di euro di profitto, ma occupando negli Stati Uniti solo 92.600 persone, mentre la General Motors negli anni 60 raggiungeva 7 miliardi impiegando oltre 600.000 dipendenti. Roberto Sommella, giornalista economico, direttore delle relazioni esterne dell'Antitrust, scrive sul Corriere della Sera ed è autore di Sboom. Sappiamo ancora sostenere il cambiamento, che è di prossima pubblicazione. Allora, dottor Sommella, moderni sì, ma disoccupati, un trend irreversibile? No, io penso che sia reversibile, però bisogna fare una netta distinzione tra quello che accade negli Stati Uniti, dove comunque la terza rivoluzione industriale ha prodotto crescita, ha prodotto nuovi posti di lavoro, e quello che accade invece in Europa, un'Europa più tradizionale, più legata all'industria di base, all'industria pesante, cioè, dove per adesso, infatti, l'occupazione è diminuita, a cominciare dalle telecomunicazioni. Allora, per adesso, con la rivoluzione digitale, in Europa dal lavoro si esce solo e non si entra, mi sembra. Sì, purtroppo sì. Pensi che solo due anni fa tutte le industrie europee di telecomunicazioni hanno avuto un fatturato ridotto di 5 miliardi di euro, e questo la dice certo. Lunga dall'impatto, ad esempio, di tutte le comunicazioni e degli strumenti innovativi che ci sono gratuiti per comunicare. Dottor Sommella, c'è una ricerca di Oxford che sostiene che nei prossimi 20 anni il 47% degli impieghi sarà ad alto rischio perché potenzialmente automatizzabili. È catastrofismo o è verità? Ma io mi auguro che Free e Osborne, così si chiamano i due profeti di sventura, sì. Di Oxford, si sbaglino, però ho letto e analizzato e in parte pubblicato delle riflessioni su Sboom, il mio prossimo libro, di questi due economisti. La realtà dei fatti è che loro hanno creato un indice di disoccupabilità relativo alla digitalizzazione e hanno preso delle professioni che sono veramente a rischio, che hanno un indice di disoccupazione possibile molto alto. La scelta. Siamo agenti immobiliari, sì. Venditori al dettaglio, vabbè, contabili, insomma. Consulenti legali, eccetera. Però invece quelli legati alla cura della persona, fisioterapisti, medici, dentisti, hanno quelli rischiano meno, anzi. Senta, dottor Sommella, intanto in Europa aumentano le persone a rischio di povertà, con una media che oscilla tra il 18 e il 20%. In pratica, sì. Un europeo su 4 ha bisogno di essere sostenuto per vivere. Meno posti di lavoro, meno ricchezza, meno consumi, un circolo vizioso. Come spezzarlo? Sì. La crisi ha ampliato le differenze, più ricchi quelli che erano già benestanti e più poveri coloro che erano nella fascia sociale più bassa. È difficile invertire il trend, perché oltre a questi che sono a rischio povertà, noi ci dobbiamo occupare di 27 milioni di disoccupati in tutta Europa, appunto, ai quali non si può dire inventati un'applicazione particolare per gli smartphone. Senta, lei quando dice che è cambiato il principio stesso di ricchezza, dice questo sostanzialmente? È difficile addirittura individuare il modo, pensiamo ai grandi operatori over the top, attraverso cui si crea ricchezza. Ormai le nostre informazioni personali, specialmente facendo un click su un mi piace su un qualsiasi social network, diventano delle commodities, hanno un valore. I grandi operatori americani over the top, che lavorano quindi sopra la rete, non dentro la rete internet, gli danno un valore economico. Quel valore poi viene replicato attraverso il marketing. Le over the top sono un pochino all'origine di questa distorsione tremenda del, come dire, della ricchezza degli stati, perché essendo la legislazione in arretrato rispetto all'evoluzione dell'economia, il risultato è questo. È vero, è proprio questo quello che penso, cioè così come l'amministrazione Clinton ha liberalizzato i servizi finanziari e ne abbiamo viste le conseguenze poi soltanto nel 2007 con la grande crisi finanziaria legata soprattutto ai prodotti derivati, l'amministrazione Obama ha di fatto liberalizzato invece la rete e questi grandissimi operatori, che per carità io non è che metto sul banco degli imputati, perché non è un problema di imputati, va benissimo, ma il problema è di pagare le tasse dove le prendono, di una libertà che in Europa non avrebbero avuto. Ma in che modo l'economia digitale ha cambiato i rapporti tra lavoro e capitale? Basti pensare che alcuni settori, pensiamo a quello turistico, c'è un boom di operatori che vivono attraverso appunto la proposta di case d'affitto oppure di biglietti aerei oppure di vacanze e situazioni analoghe, hanno sostituito certo tutte le agenzie, I bed and breakfast, gli alberghi, i residence. Sta cambiando tutto, anche il modo di fruire, si fanno più soldi con meno persone, certo, detto in modo brutale. Molto brutale, ma vero. Infatti, una volta il lavoro produceva ricchezza, quindi andava tutelato, adesso il capitale produce ricchezza e il lavoro non vale più niente. Più o meno sì, meno. Se pensiamo che i derivati hanno ancora oggi un valore che è 10 volte il PIL mondiale, dobbiamo immaginare di tornare a quello che era un po' l'insegnamento di Keynes. A mio modo di vedere, negli Stati Uniti si cresce grazie a quello che diceva Schumpeter, cioè all'innovazione tecnologica. Invece in Europa, nella nostra vecchia e cara Europa, si cresce grazie alla domanda, quindi ai consumi, quindi al lavoro, quello tradizionale. Ecco, e questi ma esiste... due modi di vedere e di concepire l'economia si scontrano inevitabilmente. Caratteristiche dovrebbe avere, se è possibile immaginarlo, un welfare moderno? Ma io credo che il nostro modello sia Keynes, cioè 27 milioni di disoccupati possono crescere solo grazie alle grandi opere pubbliche a livello transnazionale. I grandi lavori portano a grande occupazione. Gli Stati Uniti e la Cina sono le economie che guadagnano di più dalla situazione attuale. L'Europa, dicevo, che è proprio perché è la culla del welfare, si assiste a una clamorosa emorragia di ogni tipo. Ecco, che fare in Europa? Intanto cominciare a pensare che l'Europa è il terzo grande paese del mondo, perché l'Europa ha soltanto lo spazio della moneta unica, sono 300 milioni di consumatori, quindi più degli Stati Uniti. Cioè cominciare a pensare in grande, a pensare come europei, avere politiche comuni, veramente comuni, a cominciare dal fisco, cosa che non avviene. Quindi adesso, per esempio, se ci fosse un'unione fiscale, non solo bancaria, avremmo la possibilità di non effettuare queste migrazioni che vediamo sempre più frequenti, purtroppo, di giovani che vanno a lavorare a Siamo Turino, ancora abbastanza a Berlino, lontano, a Parigi. Questo, molto lontano, e questo vale anche evidentemente per le imprese. Allora, se questo vale per tutti, evidentemente deve valere anche per i lavoratori, che devono essere capaci di spostarsi, ma di trovare anche lavoro in Francia, come se fosse normale spostarsi da Francia. Francia, certo. Come accade normalmente da sempre negli Stati Uniti. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. E allora, mentre la disoccupazione aumenta, per trovare lavoro, per tenerselo, per fare carriera nell'epoca digitale, hanno sempre più peso fattori come la reputazione digitale, la capacità di influenzare i social network, che diventano uno strumento di valutazione di prodotti e di persone, di personaggi. Matteo Flora, che è fondatore e amministratore delegato di The Full, compagnia italiana che si occupa di monitoraggio, analisi e tutela legale della reputazione digitale. Ecco, dottor Flora, ma quanto pesa oggi la reputazione digitale per un prodotto, per un personaggio? Per un prodotto, come per una persona, come per un servizio, conta moltissimo. Se consideriamo che 6 italiani su 10 navigano attivamente sulla rete, e la rete diventa uno dei principali metodi con cui approvvigionarsi di informazioni. Ecco, ma come si calcola la reputazione digitale? Beh, ci sono tutta una serie di parametri che possono essere utilizzati. Ma ne dica 2 o 3 importanti. Dal posizionamento che possiamo ottenere all'interno dei risultati di alcuni motori di ricerca, dal numero di citazioni che il nostro brand nell'arco di tempo ha ottenuto, o dall'importanza di dove appaiono tutte le citazioni del nostro prodotto online. Ma come si può manipolare questa reputazione digitale? Si può attivamente riuscire a migliorare il proprio posizionamento utilizzando una serie di tecniche che ci consentono di mostrare in modo migliore possibile sia la nostra persona sia il nostro prodotto nella rete. Quindi far parlare bene di sé. Beh, la reputazione la si subisce, mentre la comunicazione è qualcosa che noi mandiamo, la reputazione è data da quello che dicono di noi. Quindi incitare comunicazioni rispetto a un tema che sappiamo essere buono per noi è sempre utile. Appunto, dico in questo senso, dico far parlare bene altri di noi. Ecco, ma in pratica voi siete diventati più o meno il nuovo Auditel. Beh, per alcune cose, tipo per la reputazione personale, ci avviciniamo molto a una metrica di mercato, quella che viene definita una currency di mercato. Perché? Perché nella realtà il valore di una persona online può essere quantificato e esiste davvero un vantaggio competitivo rilevante, soprattutto per le persone in cerca di un impiego, nell'avere una corretta reputazione online. Che per noi chi cerca l'impiego lo capisco bene, ma avere tanta reputazione e poco ascolto, fra virgolette, è anche possibile. Assolutamente sì, è possibile avere un'ottima reputazione pur non avendo dei seguaci così patiti e così ricorrenti nel usufruire le informazioni che io propongo. Com'è possibile ottenere il contrario? Come il contrario? Tanto ascolto e poca reputazione. O più che altro una reputazione molto limitata da alcune singole verticalità. Essere un grande esperto riconosciuto in un piccolo campo e non magari però sulla bocca di tutti gli utenti della rete. Senta, ma il diritto all'oblio viene esercitato spesso? Il diritto all'oblio viene esercitato spesso, nel nostro caso spesso con clienti che lo usano anche direi a ragione, cioè clienti che magari si sono trovati nella loro vita 10-15 anni fa invischiati in determinate faccende, ancora oggi magari l'unica faccenda conosciuta è il loro essere stati sentiti a testimone magari in un procedimento che è andato sotto la luce dei riflettori. E come si fa in concreto a chiedere l'applicazione del diritto all'oblio? Esiste una modalità già riconosciuta da Google per esercitarla in modo automatico. È possibile cercare su Google diritto all'oblio e la pagina viene mostrata. Spesso è complesso per il singolo privato semplicemente trovare tutte le istanze in cui si parla di lui e procedere in maniera compiutamente a tutte le richieste. E voi lo fate come servizio al cliente? Noi lo facciamo come servizio al cliente, come facciamo anche il monitoraggio delle diffamazioni online e l'invio di diffide a quelle realtà che ospitano diffamazione conclamata. Senta, ma come si calcola invece il livello di influenza sui social media? Se influenza è la possibilità di modificare l'opinione di un certo numero di utenti, si calcola non tanto dal numero di persone che mi seguono, ma da quelle che io riesco ad attivare a fare qualcosa, quindi dei numeri relativi a quanto io vengo ritenuto influente da altri sulla base di cosa sono riuscito a spingere come messaggio, ad esempio monitorando quante volte sono riuscito a far condividere un determinato tipo di contenuto o quante volte sono riuscito a vendere. Dottor Flora, ma esiste la vendita, la compravendita di pacchetti di like? Beh, quello sì, è il motivo per cui nell'analisi dell'influenza diventa molto stupido utilizzare come metrica il numero di follower o il numero di like. Esiste un mercato estremamente proficuo e diffuso per la compravendita di questi like. Diciamo che si può avere molta popolarità anche senza una grande influenza sociale o viceversa? Assolutamente sì. E anzi è pericoloso pensare che un grande numero di seguaci, di follower, corrisponda automaticamente a una grande influenza in un settore. E per questo io facevo l'esempio dell'Auditel, perché un grande numero di ascoltatori dell'Auditel non vogliono dire direttamente né una cosa né il suo rovescio. Sì, diciamo che spesso sono misure correlate, per essere onesti intellettualmente, ma esiste la possibilità di alterare in modo artificioso questi numeri. Senta, d'accordo con quanti sostengono che il valore dell'influenza sociale finirà per essere inserito nel curricula? Quello non lo so, è ancora tutto da stabilire a seconda della funzione. Vi sono funzioni per cui, sto pensando al marketing, potrebbe avere un valore, e funzioni, sto pensando all'ingegneria, in cui magari ne ha una parte minore. Sicuro certo. È che una misura invece della reputazione di brand e prodotti entrerà sicuramente all'interno di quella che è la valorizzazione stessa del brand. La buona reputazione diventerà un metro, un po' come un nuovo tipo di EBITDA, una misura prettamente economica per la valutazione e la scelta magari tra due diverse realtà su quale investire. Perché ovviamente una buona reputazione è il viatico per ottenere dei risultati estremamente positivi. Mario, un po' di calma ci vuole prima di cedere al totem della valutazione digitale, no? Della reputazione digitale come parametro di valutazione di tutto. Beh, insomma, io spero che l'elemento umano prevalga sempre. No, perché fine. Sai, nelle aziende quando serve si fa riferimento alla reputazione digitale, consulenti che si appellano a quello come per dire una qualunque cosa. Un direttore delle risorse umane che fa una cosa del genere è un deficiente. Io mi auguro che nessuna azienda assuma lui a quel punto. No, invece posso dire una cosa sul diritto all'oblio. Dunque, è molto contrastato, perché è vero che in rete circola di tutto, c'è anche la diffamazione, ovviamente c'è molta diffamazione e così via. Però attenzione, io ho partecipato a un convegno con Google proprio su questa cosa. E il ricordo in rete oggi sono come le tavolette di cera, i papiri, cioè sono fonte di ricerca primaria. Un tempo c'erano le pietre con i motivi cuneiformi, e oggi c'è la rete. Se tu cancelli una cosa dalla rete, l'hai cancellata per sempre. Faccio un caso giornalistico: processo, uno viene assolto e uno dice, beh, ma io ho il diritto all'oblio, certamente, ma per esempio potrebbe esserci un interesse pubblico di vasto dominio. Dunque, secondo, potrebbero esserci fatti nuovi e il processo si riapre. Come cerco io i precedenti, mi segui? Cioè, è un tema molto forte, delicato. L'altro tema è che secondo me quel mestiere non lo deve fare Google. Questo è il punto. E mi sorprende come gli editori ciecamente abbiano lasciato che la Corte di Giustizia Europea decidesse così. Ma cioè si sono fatti fregare il mestiere. Non hanno proprio capito di che cosa si parlava. No, vabbè, gli editori hanno capito molte cose. Poche cose hanno capito e tutte sbagliate quasi sempre. Vabbè. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Preferisco così, senza troppo rumore, come quando si sta soli dietro una porta a guardare che spiove. Preferisco così, senza niente da dire, che un amore si sa prima o dopo rubato sarà. Allora Pietrangelo, dove sei? Oggi niente metropolitana, sono ancora in viaggio, perché oggi ho assaporato l'alba di Asti e c'era tutta una luce preparata dalle nubi del giorno prima, una scena d'acqua che era quasi come un sipario, il sipario del primo poi, ed è appunto primo poi che dovrà finire, una scena bella, intima, potente, da godere come nella canzone di Gianmaria Testa, preferisco così, da una porta qualunque, e lì mi sono messo ad aspettare che spiova. Ho appunto atteso, trovandomi di fronte tanti altri portoni improvvisamente spalancati sul fare del giorno, ed erano portoni ampi che ho riconosciuto come rimesse di camion che si sono sovrapposti nel tempo alle antiche scuderie, da dove ne sono venuti fuori dei tir e degli autoarticolati diventati, con la magia della pioggia, cavalli, splendidi cavalli, il cui nitrito ha richiamato il sole. Ed è stato un torneo proprio perché ha ragione Gianmaria Testa, è stato un bene aspettare che spiova. Solo stare seduti a una porta qualunque a guardare che spiove. Mario, nel tuo pentolone che cosa ci abbiamo? Senti, senti. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. Mi vengono, cioè, mi viene difficile interrompere Freddie Mercury, francamente. Hai ragione. È quasi un sacrilegio, devo dire. Vabbè, abbiate pazienza, ci cari tocca. Ascoltatori, già ci tocca. E I want to break free, certo, uno vuole liberare qualsiasi cosa, ovviamente. Gli ideali sono grandi. E nel che succede di oggi, metto in evidenza come il tema, provo a evidenziare, diciamo, come il tema dell'immigrazione sia un tema in realtà caldissimo del dibattito politico. A tutte le latitudini. Hillary Clinton e Marco Rubio ne hanno fatto oggetto di primaria importanza nella campagna presidenziale degli Stati Uniti. Il governo inglese questa settimana studia le nuove regole sull'immigrazione. In Danimarca è diventato tema da campagna elettorale. L'Ungheria sta alzando le barriere alla frontiera con la Serbia e paesi limitrofi. In Germania, a Dresda, i nazionalisti Pegida, chiamati da poco come vi pare, hanno preso il 9% e sono il quarto partito. La Francia dice di non aver chiuso con Schengen, ma ha chiuso certamente a Ventimiglia, non si passa la frontiera a Ventimiglia. Secondo voi questa è un'emergenza? No, non è un'emergenza. Non è più un'emergenza, è un dato di fatto, quindi con un cambiamento grosso del paradigma della contemporaneità, del presente, che va affrontato con strumenti diversi. Servono statisti, Giovanni, non so quanti ce ne sono in giro. Perché è una migrazione biblica, sì. E non un'emergenza. Non è un'emergenza, questa sarà una cosa permanente, ricordatevelo. Salamini! Come con Giorgio Guazzaloca, anzi di più. La sconfitta della sinistra a Venezia è, per l'establishment, per il potentato più che forte, un trauma ancora peggiore rispetto alla sconfitta subita nel giugno 1999 a Bologna, quando Giorgio Guazzaloca, titolare di una macelleria storica, amico di Indro Montanelli, sconfisse il candidato della sinistra per interrompere così una lunga consuetudine di potere a Bologna, tutta all'insegna della tradizione comunista, post-comunista e bene comunista in genere. E dunque, come con Guazzaloca, anzi di più, il risultato di questa notte con Luigi Brugnano, candidato della coalizione di centrodestra che batte la sinistra nella persona di Felice Casson, è il segnale ben più che significativo. Corona una stagione politica che, dopo il risultato di Zaia in Veneto, uniforma ancora di più quello che non è un umore o un cattivo umore dell'opinione pubblica, ma un vero blocco sociale. E quindi, se il sud delle clientele può ancora confortare di consenso l'establishment e il potentato più che forte indebolito nella narrazione, se ne può ricavare una sola morale in cotanta favola, e cioè che la realtà ha preso il sopravvento sullo storytelling renziano. Io devo rubare la battuta ad Antonio Polito quando dice che Venezia e Arezzo hanno scelto evidentemente il piano B, perché anche ad Arezzo, nella città di Maria Elena Boschi, della soave Maria Elena Boschi, Matteo Renzi ha perso. E perciò mi consentirete una divagazione degna della va spettacolo al bimbo prodigio, all'astro della festa dell'unità. Io affido una sola consolazione: il libero. Libero. C'è ancora una bolla? Più di una c'è. No, adesso. Sotto gli occhi da sempre distratti del mondo, sotto i colpi di spugna di una democrazia. Beh, insomma, Liga non è Freddie Mercury, però è bravo, una bella voce, eh. Soprattutto fa sempre un set di canzoni azzeccato sul momento, senti. Comunque sia, sotto gli occhi annoiati, allora, distratti. Sotto occhi annoiati, ma non distratti, probabilmente, noi guardiamo quello che sta accadendo nel mondo dell'economia. Oggi Mario Draghi, presidente della BCE, parla al Parlamento europeo. Ovviamente gli occhi sono puntati tutti sulla Grecia. Sì, c'è il quantitative easing in corso, però diciamo. Fino a settembre sta lì. Esatto, sta là e starà là ancora un bel po'. E invece la Grecia è là che esplode. Leggevo la newsletter di Paul Donovan per UBS stamattina, era intitolata 45 minuti, cioè tanto è durato il vertice d'emergenza tra le autorità che stanno cercando di salvare la Grecia, o forse no, e appunto il governo di Atene. E che cosa succede? I colloqui sono non falliti, fallitissimi. Esatto. Tra pochi giorni, probabilmente, secondo gli analisti, Atene potrebbe essere costretta ad adottare misure straordinarie per evitare ulteriore fuga di liquidità, fuga di capitali. Le soluzioni sono già state viste a Cipro, in Islanda, in Malesia, in Argentina, significa blocco dei conti correnti, non si può sono ritirare soldi, blocco di operazioni liquide e non comunque di valori immobiliari all'estero. Tutto questo è uno scenario un po' da Armageddon, se volete. Certo. Qualcuno dice che i mercati hanno scontato anche questa cosa. In ogni caso il Grexit è un, è un trauma, perché la prossima domanda sarà: dopo la Grecia chi ci prova? Certo. A farlo? Quindi è un break up, una rottura vera dell'Unione Europea. Apre scenari nuovi. Apre scenari nuovi. Io sottolineo il nostro conticino a tutti, euroentusiasti ed euroscettici: 40 miliardi di euro di crediti inesigibili. Esatto. E come tutti i lunedì abbiamo la nostra Alessandra Fiori con il suo lunedì libro. La gente ha bisogno di piccole paure per non pensare alle grandi, oppure le piccole paure non esistono e per essere vera la paura deve essere smisurata e crescente. Personalissime ossessioni, incubi, desideri inconfessabili prendono forma in Cari mostri di Stefano Benni. Una piccola bottega degli orrori contemporanea. 25 racconti tra il comico e il grottesco, per passare dal viaggio spersonalizzante nella burocrazia digitale alle ambizioni malevole e agli istinti repressi incarnate dal Venge, mostruoso protocane con faccia da pesce e coda da rettile, capace di scatenare oscure furie distruttrici. Una moderna mostrogonia che si fa strada tra polemica e invettiva, con le adolescenti pronte a uccidere per un biglietto al concerto del loro gruppo preferito, i vampiri che preferiscono diventare cenere piuttosto che confrontarsi con Equitalia, la mostruosità delle Candice, bambole erotiche in gel siliconato di penultima generazione, o la Madonna che invece di piangere ride sfrontata. C'è la favola rivista e corretta di Hansel e Gretel, ora messi a dieta per essere più attraenti, fino alle pagine dedicate agli ultimi giorni di Edgar Allan Poe. Perché la paura deve essere una grande passione. Di paura si deve morire. Cari mostri, di Stefano Benni, Feltrinelli. Era Alessandra Fiori con il suo lunedì libro. Pubblicità. Mix 24. Ed è arrivato il momento della mitica Sara Tardelli. Ah, regà, se un locale per cercare una novità si deve mettere il numero di una che ha fatto il botto con la macchina, col sangue finto in fascia, e dai, su. Sì, ma infatti il locale così c'ha il fiato corto, mica botte chi. Ah, regà, sapete qual è il problema? Che nessuno c'ha più niente da dire. È stato detto tutto. È stato detto tutto, era una scena del bellissimo film Viaggi di nozze di Verdone. Ci hanno detto che avrebbero rottamato tutti, che tagliando i servizi sarebbe sceso il debito pubblico, che la violenza negli stadi sarebbe finita. Ma una cosa non l'avevo ancora sentita, E l'ha detta Joseph Blatter, 5 volte presidente della FIFA. Blatter, dopo essersi dimesso qualche giorno fa da presidente, dopo, diciamo, uno scandalo, un'indagine dell'FBI, ha deciso di ritirare le sue dimissioni. Davvero, io non l'avevo mai sentita. E di fronte a questo io mi chiedo, ma è possibile che questi uomini e queste donne al comando non riescano a desiderare altro che una poltrona? E noi siamo capaci di avere ancora desideri profondi o siamo diventati così? Una stella cadente! A stella cadente, là! Il desiderio, il desiderio! Oh, ci siete riusciti? A me non mi è venuto. Io non l'ho vista proprio. Ma che te vuoi desiderare? Che palle, oh. Beh, carino. Palle, che palle. Senti, ce l'hai una bolla ancora, Mario? Eh sì, più di una, vai. Vai. Honey, love, love, what is my mind? And I need to find time, someone call my. Bella, no? Anche qua. Qua c'è una grande batteria, perché lui è nato batterista, e poi una grande voce, insomma, musicista a 360 gradi, no? E Phil Collins, sempre. Stavo dimenticando la cosa più importante. Dire chi era. La Scozia ci riprova, sai, Giovanni. Nel quadro che stiamo facendo qua, il vecchio continente così tanto bello, amato, ma in condizioni un po' difficili. E beh, il Brexit si sta arricchendo, quindi l'uscita del Regno Unito dall'Europa in realtà ha un problema di uscita della Scozia dal Regno Unito. Una matriosca meravigliosa, certo. Dal punto si di vista tutto, del racconto politico, c'è sempre il rischio che si smonti tutto. Oggi il Parlamento inglese discute, non è un'opinione, è un fatto, discute di devolution, quindi di devoluzione, detta in italiano, bruttissima parola, ma così si dice, di poteri alla Scozia, tema antichissimo, già l'aveva affrontato Churchill in mille maniere, senza però cavarne un ragno vero dal buco. Vediamo che cosa succede, potrebbero chiamare un nuovo referendum. Segnalo che alle ultime elezioni politiche la Scozia era tutta e tutta degli indipendentisti, cioè per gli altri no seats, no seggi. Insomma, vediamo, secondo me le cose si stanno complicando un pelino troppo rispetto a quello che immaginavamo qualche mese fa. Ecco, in attesa della nuova RAI che uscirà dalla legge presentata dal ministro, dal Presidente del Consiglio in Parlamento, se ci sarà, se sarà approvata, noi sentiamo il nostro professor Simone. Buongiorno professore. E questo canone benedetto. Sentite un po' dov'è il canone. Il commissario Montalbano sono. Allora, vi spiace se anch'io do i numeri che piacciono molto. Sì, dia dei numeri. Allora, il turismo nella provincia di Ragusa vale 30 milioni di euro all'anno, che non sono pochi. No. Almeno un terzo di questi 30 milioni sono dovuti alla presenza di Montalbano, cioè al fatto che le immagini della provincia di Ragusa compaiono regolarmente nelle fiction di Montalbano. Sì. Allora, Montalbano minacciava di emigrare in Puglia. Ma cercava chi gli dava più soldi, semplicemente. La Sicilia ha rilanciato, compresa questa volta la provincia di Siracusa. Sì. Ma non sono gli unici numeri che vi do, perché lunedì scorso Montalbano, con più di 4 milioni di audience, ha vinto la serata con una fiction che sarà andata in onda almeno una dozzina di volte. È come Don Matteo, ha battuto una fiction di Canale 5 che invece era una nuova, assoluta novità. Allora facciamo la morale. La morale è che la RAI ha dei tesori in casa, sì, e questi tesori vanno valutati. E non c'è solo Montalbano. Io scommetto che questa sera Montalbano vincerà ancora. Sì. Ma c'è un altro tesoro. Sabato sera. Viva Elvira Sellerio, allora. Viva Elvira Sellerio e viva E viva Renzo Arbore, viva Renzo lui, Arbore, sì. Viva, cioè, chi era il direttore che ha lanciato Arbore? Ah, non mi ricordo. Ah, ecco, forse vediamo un po', proviamo a fare anche lì un canzoniere, no? Un direttoriere. Allora, cosa è successo? È successo che Fabio Fazio, che non piace a Pietrangelo, no? Però sa fare televisione, ha fatto una serata dedicata a Quelli della Notte, al trentennale di Quelli della Notte. E ha fatto bene. Caspita, è arrivata seconda nella graduatoria di audience di sabato sera, battuta ovviamente da Carlo Conti e San Francesco, ma lì sono i santi, non possono perdere di fronte a Quelli della Notte. Però siamo in chiusura. Sono 2,5 milioni, un bel sabato sera e bene. Un bel ricordo, insomma, i tesori sono... Va bene, quindi bisogna, diciamo che il canone è nella Cineteca della Rai. Va bene? Questo sta dicendo, professore. Grazie, professore. Vi ricordo che dopo il giornale radio parleremo di un cantautore, la storia di un cantautore, musicista, un attore, Roberto Murolo, che è tra i più grandi interpreti della canzone napoletana. Naturalmente, con Marina Milone racconteremo la sua lunghissima carriera, ma questo dopo il giornale radio. Intanto, Gli ostacoli del cuore di Elisa e Ligabue. Un principio di magia fra gli ostacoli del cuore, mi si attacca volentieri fra una sera che non muore e una notte da scartare come un pacco di Natale. C'è un principio di ironia nel tenere Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.